Ad alta voce, Valentina Carnelutti legge Jules Jimes di Henri-Pierre Rocher, edizione Gallimard, 1953, traduzione di Ena Marchi. Kate racchiuse il suo mondo nella casa e chiese a Jim di andare a vivere stabilmente allo chalet. Jim ebbe la sua stanzetta, ma dormì con Kate. Non avevano neanche un'ora da perdere. Kate aveva una grande stanza quadrata con un letto a due piazze e un ampio terrazzo chiuso da una balaustra di legno scolpito. Lì nessuno poteva vederli. Durante il giorno Kate, Jules e Jim stavano spesso su quel terrazzo, dalla parte in ombra o da quella al sole a seconda del tempo. Facevano il bagno in una tinozza spruzzando schiuma dappertutto. Kate aveva in proposito delle idee giapponesi. Il nudo è erotico, diceva, solo quando vuole esserlo. Faceva il bagno sotto i loro occhi senza nessun problema. Poi toccava a Jim, poi a Jules, sempre continuando a parlare. Era un accompagnamento di forme. Jules e Jim vivevano con la loro statua greca animata e gliene erano riconoscenti. «Noi dobbiamo», diceva Kate, «ripartire da zero e riscoprire le regole, correndo dei rischi e pagando in contanti». Era questa una delle basi del suo credo che Jim condivideva e che li univa. Jules non era né favorevole né contrario. Era uno spettatore benevolo e codificava per ogni evenienza le scoperte degli altri due. Si divertiva ogni tanto a tirar fuori un vecchio testo greco o cinese che diceva le stesse cose che dicevano loro. «E va bene», diceva Kate, «ma l'avevamo dimenticato». Un giorno di gran caldo, dopo che si furono reciprocamente annaffiati con brocche d'acqua fredda, Kate decise di sedurre Jules. Andò a trovarlo nel suo angolo di terrazzo, sul suo materasso di rafia. Gli si sedette sulle ginocchia, gli mise le braccia intorno al collo e lo rovesciò tutta addosso a lui. «No, no», diceva Jules. «Sì, sì», diceva Kate. Per Jim, che stava a pochi passi da loro nell'angolo opposto, fu evidente dopo un po' che lei gli dava un immenso piacere. Non li guardava, approvava Kate, era felice per Jules. Si diceva: «Penserei la stessa cosa se credessi che il loro è un rapporto totale?» Ci fu un silenzio. Kate e Jules ricominciarono a parlare sottovoce. Jules aveva un'aria confusa e felice. Poco dopo, Kate ricominciò con Jim. Curvo sulle pupille di Kate, Jim fu stupito di non veder passare sul loro fondo oscuro quel che lui con tutto se stesso le stava dando. La giornata fu calma. Kate non ebbe reazioni contro di loro. Constatava: «Jim non ha impedito nulla. Ha fiducia in me. Non è geloso di quel che accordo a Jules». Kate non rinnovò quella festa o esperimento. Il mese precedente, prima di andare da loro, Jim era stato ospite per due giorni in città a casa di Annie, la cugina di Kate, che gli aveva prestato il suo atelier. Jim era libero a quell'epoca. Aveva flirtato un po' con la cugina, lei gli aveva parlato del suo amore per un certo pittore dal profilo di medaglia e glielo aveva anche fatto incontrare, il che non aveva impedito che lei e Jim si scambiassero molti e molti baci. In occasione di un giro in città, Jim la rivide, ballò con lei e a mo' di addio scherzoso le baciò in presenza di Rachel una ciocca di capelli. Rachel si affrettò ad andare a raccontarlo a Kate e a Matilde con tutti i commenti del caso. Kate ne trasse le conclusioni più nere. Jim aveva avuto una storia con Annie e la cosa continuava. Kate non disse niente. Invitò da loro Annie, la quale, perfettamente a suo agio, partecipò ai loro giochi nel parco. Per Jim non c'era che Kate, ma Matilde, indignata dal racconto del tradimento di Jim con Annie, credette di vederli baciarsi mentre si giocava a nascondino. La sera poi, durante i piccoli giochi di società con le bambine, Annie parve cadere in una trappola freudiana e diede una risposta bizzarra. Kate era impassibile. Invitò Jim a fare un giro nel parco. Era avvolta in una sciarpa candida, luccicante, e portava un turbante della stessa stoffa. Improvvisamente divenne di ghiaccio e piena di ironia. Jim la interrogava invano. Alla fine gli disse: «Ho deciso che domani sarò l'amante di Albert e l'ho chiamato». Jim, colpito mentre era al colmo della felicità, crollò. Lei rifiutava ogni spiegazione. Un po' alla volta, faticosamente, Jim ricostruì la storia di Annie e di Rachel e alla fine capì. Ammise il breve flirt del mese prima, ma da quando c'era Kate niente poteva toccarlo all'infuori di lei. Gli sembrava una cosa evidente. Lei, chiusa, inaccessibile, lo ascoltava almeno. Occorsero a Jim 2 ore di sforzi e l'offerta di andare insieme a trovare Annie per sospendere la decisione di Kate. Lei accettò l'offerta e per la prima volta congedò Jim per la notte. presero il primo treno del mattino. Kate chiese a Danny di ospitarli, la pregò di invitare il suo amico e organizzò una sorta di ballo in maschera a quattro, con costumi, buffet, grammofono, durante il quale assunse di volta in volta il ruolo di invitata e quello di grande inquisitore. Si impegnò nella seduzione dell'amico di Annie, lasciando agli altri due piena libertà. Quelli fiutarono la trappola. Annie tremava all'idea dei disastri che Kate poteva provocare nella sua vita. Era ormai l'alba quando l'amico se ne andò. Kate, quasi placata, si buttò finalmente sul letto e fra le braccia di Jim, autorizzando la cugina a fare dei disegni di loro due per vedere dal suo atteggiamento se davvero non amava Jim e se Jim sarebbe stato imbarazzato dalla sua presenza. Non lo fu. Kate e Jim dimenticarono Annie, che lasciò appuntati sul muro degli schizzi epici. Jim sentì riaccendersi il loro amore. Aveva ritrovato la gioia di vivere. L'indomani partì per andare a trascorrere 5 giorni in compagnia di eminenti compatrioti di Kate. Rimase impregnato di lei durante le conversazioni che ebbe con loro. Lei lo aiutava a capire. Il quarto giorno ricevette una lettera ambigua. Kate non amava le assenze. Jim si affrettò a tornare. Kate aveva fatto da sola un'escursione a piedi per le montagne, 2 giorni di cui annotò poi ogni momento. Gradualmente all'euforia seguì un ritorno di dubbio. C'era pur stato qualcosa, dopo tutto, fra Jim e Annie prima che comparisse lei. L'uomo di Kate non doveva dare adito a sospetti. Nel dubbio bisognava punire e bisognava anche che Jim non fosse troppo sicuro di sé. Kate doveva sistemare la faccenda a modo suo e ripartire da zero. Chiamò Albert il quarto giorno. Passò qualche ora con lui, gli prodigò grandi carezze che descrisse poi nel suo diario e lo congedò pieno di speranza. Per lei ognuno dei suoi uomini era un mondo a parte e quel che vi accadeva non riguardava gli altri, ma questo non le impediva di essere gelosa. Un giorno aveva portato dal medico la figlia maggiore ammalata. Gli disse: «Dottore, è la mia unica figlia». La bambina, sorpresa, accennò alla sorella minore. «Ma come?» disse il medico. «L'altra è la mia seconda unica figlia», disse Kate. Lo stesso avrebbe potuto dire dei suoi amori. Tornò Jim, che ardeva per lei, e gli sembrò di essere accolto con amore. Sentì però qualcosa di strano in casa e un che di imbarazzato in Jules. Fece delle domande. Giorno dopo giorno Kate gli distillò nel cuore il suo veleno, finché gli disse quel che aveva fatto con Albert. Jim riconobbe il metodo a scoppio ritardato che lei aveva già usato con Jules. Pensò che era sciupare tutto per niente. Jules e Mathilde, che avevano smesso di temere Albert da quando era arrivato Jim, si erano rifatti inquieti. Jules disse a Kate: «Chi di spada ferisce, di spada perisce». Kate lo guardò trionfante. «Se ho il benché minimo dubbio, faccio sempre più di quanto l'altro abbia potuto fare». Jim volle andarsene. Il suo dolore semplice gli riconsegnò Kate senza riserve. Lei seppe trattenerlo. Lui finì per capire che lei aveva voluto fare giustizia, che quella era la sua follia, forse, ma che aveva dovuto farlo. «E va bene», disse, «ricominciamo». Fu una nuova luna di miele, per loro e per la casa. Kate lesse loro una sera il suo frammento preferito della Pentesilea di Kleist, dove lei massacra con frenesia un Achille disarmato e fremente d'amore per lei. «Perché lo uccide?» disse Jim. «Perché lei è in armi se lui è disarmato? Non può vincerlo diversamente, e perché poi vincerlo se si amano? Uccidendolo dà prova di debolezza. Oppure dopo averlo ucciso si uccide?» Kate rispose: «Cosa c'è di più bello di un sangue rosso che vi ama?» E aggiunse: «Io sono al centro del rosso del tuo cuore, Jim, e voglio bere, bere, bere». Jules aveva detto: «Un sorriso arcaico si nutre di latte e di sangue». Le labbra di Kate erano fatte per l'uno e per l'altro. La locomotiva in città. Nel pieno di questa luna di miele, Kate volle cambiare, lasciare lo chalet, andare a vivere in città sola con Jim e riprendere la danza il pomeriggio per creare un numero di music hall. Andarono alla stazione con Jules e Mathilde, posarono a terra le valigie e aspettarono il treno. Cadeva la notte. Kate si divertiva a camminare in equilibrio sulla rotaia lucente. I grossi occhi di fiamma della locomotiva apparvero all'uscita della curva e diventarono sempre più grandi. Kate sulla rotaia avanzò verso di loro. Jules era terrorizzato e esasperato da quell'acrobazia. Gridava: «Kate, Kate, ma sei pazza? Smettila, per favore!» Kate si faceva ancora più audace e accennava dei passi di danza. I fanali della locomotiva si avvicinavano. Jim disse a Jules sottovoce: «Zitto, Jules, così la incoraggiate, la vostra paura è il suo piacere». Il treno arrivava e rallentava. Jim si mise accanto alle valigie e guardò Kate. Proprio all'ultimo momento lei fece un leggero salto di lato, fuori dalla luce dei fari. Perfetto. Jim si abbassò e prese in mano le valigie. Si mise a correre verso le prime carrozze dove aveva visto dei posti liberi. Non ci si vedeva quasi più. Inciampò in qualcosa di molle, un sacco allungato per terra. Lo superò con un salto e per poco non cadde. Si voltò e si chinò a guardare. Era un corpo di donna. La gente le si accalcava intorno. Jim stava per andare oltre, verso Kate. Portarono una lanterna. Jim riconobbe Jules curvo su quel corpo. La donna a terra era Kate. Delle braccia la aiutarono ad alzarsi. Lei si tenne in piedi, vacillante. Jim la palpò, le fece muovere braccia e gambe. Sembrava non ci fosse niente di rotto. Lei mormorò: «La testa, dietro». Jim ci mise una mano, c'era del sangue. Kate aveva una ferita al capo. La locomotiva, più larga di quanto pensasse lei, accecata dai fari, l'aveva sfiorata e gettata per terra. Kate fece qualche passo. «Partiamo lo stesso, Kate», disse Jim. «Sì», disse Kate. Fecero appena in tempo. Jim spinse Kate sorreggendola fino alla prima carrozza, la tirò su come un pacco, afferrò le valigie che Jules e Mathilde gli porgevano. Il treno si muoveva già. Delle brave persone fecero posto a Kate nella carrozza già piena. Lei ebbe un breve svenimento, ritornò in sé. Jim dovette lasciarla e rimanere in piedi, lontano da lei, sulla piattaforma affollata di uomini e piena di fumo. Né Jim né Jules poterono mai ricostruire esattamente i movimenti di Kate prima della caduta. E lei non si ricordava di niente. Presero alloggio in una pensioncina. Accostarono i due letti stretti per farne uno solo. Kate aveva un grosso livido su una coscia, una piaga in testa, contusioni varie e un indolenzimento generale. Jim sposò la sua convalescenza. I primi giorni non si alzarono dal letto. Kate guarì e disegnò per Jim le visioni che le aveva dato la febbre. «Se di questo disegno tu facessi una buona copia e ci aggiungessi quel che mi hai raccontato ora», disse Jim, «qualunque rivista di avanguardia lo pubblicherebbe». «Davvero, Jim? Davvero?» Lei si mise a disegnare con la schiena contro di lui. Non le piaceva che si staccasse da lei e a lui non piaceva staccarsene. A volte per aiutarla le teneva soltanto i piedi. Disegni e testi furono terminati. Il tutto fu spedito. «Ma se avrò successo», disse Kate, «vorrò farne degli altri. E diventerà un mestiere, come per Jules. Io non voglio avere un mestiere». «Il successo però ha i suoi vantaggi», disse Jim. «E dopo tutto disegnerai solo quando ne avrai voglia». Kate, per respirare fuori dalla loro serra d'amore, perché lei e Jim non ne morissero, riprese l'idea di preparare un numero di danza e prese in affitto un atelier lì vicino, dove passava il pomeriggio da sola. Jim aveva in lei una fiducia totale e non l'accompagnò mai. «Fu davvero sola?» In seguito Jim se lo chiese. In ogni caso lei gli dava un tale assoluto che nient'altro contava all'infuori di questo. Per Jim il loro amore era come un monte bianco e poco gli importava in quel momento di quel che potesse dissimularsi nelle valli. Kate faceva degli schizzi di una teoria sull'amore fisico e li mostrava alle sue amiche. Vedevano spesso Annie, senza riserve mentali. Un giorno arrivò per Kate una lettera con l'intestazione della rivista. I suoi disegni sarebbero apparsi nel numero seguente e gliene chiedevano altri. «Lo vedi, Jim?» disse Kate preoccupata e felice. Un mattino, a mezzogiorno, Kate si avventurò con un secchio in mano nel corridoio della pensione. Aveva indosso la giacca di un pigiama di seta rossa, senza i calzoni. «Ma puoi incontrare qualcuno?» le gridò Jim. «A quest'ora è improbabile», disse lei. «E poi questo rischio è una tradizione di famiglia». Andarono a uno spettacolo di music hall. Un barbone aveva voglia di rubare una bicicletta appoggiata contro un albero, esitava, continuava a togliersi e a rimettersi la sua sciarpa gialla per tenere occupate le mani e resistere alla tentazione, e alla fine la rubava. Era perfetto. Cercarono invano di incontrarlo all'uscita degli artisti. Jim amava la luna piena. Kate no. È troppo facile, diceva, l'amore e la luna. Le evocava certamente cattivi ricordi. Vagavano per le viuzze della città divertendosi a parlare con gli artigiani che li accoglievano nei loro retrobottega. Si esaltavano su progetti stravaganti e su idee che loro credevano nuove per guadagnarsi largamente di che vivere continuando ad avere molto tempo libero e per fare, tra le altre cose, dei regali a Jules. Il difficile era trovare quali, perché lui non desiderava nulla. Erano pii nei confronti di tutto. Un giorno entrarono in una chiesa. Kate era protestante e Jim cattolico. Si inginocchiarono assieme alla folla e aspettarono. Era il momento della comunione. Due lunghe file di suore avanzavano lentamente a occhi bassi e mani giunte verso l'altare. Tre di loro, giovani, vestite di bianco, erano particolarmente belle. Con grande sorpresa di Jim, Kate si alzò e si unì a loro, e accanto a loro e con lo stesso raccoglimento fece la comunione dopo aver sbirciato come ricevevano l'ostia. Sacrilegio? No. Kate faceva questo spontaneamente. Avrebbe fatto lo stesso per qualsiasi culto in qualsiasi luogo. Tornò al suo posto, meditò assieme alle suore e quando rialzò il viso era serena. Valentina Carnelutti ha letto Jules et Jim di Henri-Pierre Rocher, edizione Gallimard 1953, traduzione di Ena Marchi, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio, regia di Luigi Iavarone. Per riascoltare il programma radio3.rai.it, per scaricarlo raiplayradio.it.